Io non fotto con gli illuminati, io non fotto con gli illuminati, io non fotto con gli illuminati, io non fotto con gli illuminati, yo. Ecco sì, dalla parte più oscura del tuo cervello. Ti ritrovo, ti ritrovo, maledetto, maledetto, ti ritrovo. Ti ritrovo attaccato e bruciato, come nel momento in cui tua mamma t'ha cagato. Sapessi le galassie che ho girato, i mondi che ho evitato per non stare qui, in questo stato. Polveri di stelle, siamo fatti di sogni senza fine, pezzi senza rime, senza di puntine, folli bamboline dalle menti stanche. In un mare di parole siamo pesci senza branchie. L'aria si è fritta, l'armata è sconfitta, accendo il furgone, rientra la ditta, ascoltando lo stereo che schippa la traccia. Divido le strofe da mettere in faccia, come diversa schematizzazione delle fattezze che fanno il fattone, dove le parole danno vita all'illusione che si polverizza come fosse un megatone. A muro roa, vacanze canoa, gara che arriva per primo alla boa. Prima di sentire addosso l'onda d'urto, accelero le metriche, scusate il disturbo. Deco è risorto, ma quando era morto ritorna dal limbo e nessuno si è accorto come lo spazio risulti più corto di quanto il più dritto cammini più storto. Alza quelle mani in sintonia, fammi percepire la più forte energia prima che la notte mi riporti via, come pezzi di una gigantografia. Musica dall'anima alle masse, esco dalle casse, ci sentiamo stasse, come se vibrasse, come chi lo disse. Musica tra bestie, ti liscia le fibrisse, cordini serate, io ti mescolo le ascisse per la dimensione nella quale Deco visse. Levami la tele che la voglio devastare, davvero non avevi nient'altro da regalare. Evito giudizi, li schivo, flow radioattivo nel quale vivo, tutto il resto assomiglio lassativo. Troppe le cagate, io non sono comprensivo. Flow, mega flow, ti devasto, rapo pure quando dormo ma non mi basto. Una canzone bella non rimpiazza un passo, ecco perché sono sempre in contrasto con chi parla, parla che sborsa, con chi parla troppo di corsa. Ho già preso troppa rincorsa, hai detto che mi paghi, metti mano a quella borsa. Ti fa da sefa per 300.000, in un'ora nello studio ti compilo la compila. Hai voglia di attaccare, allora mettiti in fila, qua dentro è molto buio, amico, portati una pila. Ehi, sei cieco, non vedi le catene, oppure le intravedi solo quando ti conviene. Standoti di zitto tu credi di fare bene, potessero guardare ti ruberebbero anche un rene. Tra tutti sti supereroi, so che il più marcio si cella tra voi. Rime come fionde per legare gli avvoltoi, chiudete quelle bocche, maledetti pisciatoi. Ti ritrovo ultimamente delirante, parli di contanti, ma ci sei distante. Faccio questa cosa e tu rimani un ignorante, sulla tua piramide con l'occhio lacrimante. Yo, oh, Deco MC. Io non foto con gli illuminati, Resurrex, io non foto con gli illuminati.